cosa farai. Qualunque storia vivrai, ricorda sempre e tienilo a mente, la strada è lunga e lo sai. Tu non sai quanto vorrei sapere quello che sai, saper suonare col solo toccare la mano di uno che sa. Notte di metà agosto, ho visto Nina volare sopra il cielo di Genova, ma tutti guardavano il mare. Stanotte cadono le stelle, lo ha detto il telegiornale. È difficile vedere tra i fari della tangenziale. Nessuno rispetta la fila quando si rompe la diga. E a perdi fiato basta un ramo spezzato che non si arriva più in cima. I dolori, le canzoni e tutti i suoni che sentono i cani quando li portano. Sono fatti e poi ci son mille opinioni, ma mi ricordo quando ero risolto e tutto era ancora davanti a me. In una notte di metà agosto ho visto Nina volare sopra il cielo di Genova, ma tutti guardavano il mare. Stanotte cadono le stelle.